Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 2 aprile, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti tra la città e il carcere a Liberi Dentro e Doradio. Siamo sempre su Radio Città Fujiko, ore 9 e ore 10.30 su Teletricolore. Io sono sempre Caterina e qui con me ci sono Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno a te, a tutte e a tutti. E Samad Bannak, ospite, che è stato ospite per tutta la settimana fino ad oggi con noi, buongiorno. Buongiorno, assalamu alaikum. E grazie di questa compagnia preziosa. Allora, oggi comincio parlandovi, citandovi un articolo uscito su Altra Economia, dove c'è una bella intervista al Garante Nazionale dei Detenuti, Mauro Palma, di Luca Rondi, I fantasmi delle carceri italiane, le storie degli internati ancora privati della libertà. Perché nel nostro paese sono oltre 300 le persone nel circuito penale, ancora nel circuito penale, pur avendo scontato la pena, che però non riescono dal carcere perché devono dimostrare di essere in qualche modo, di aver pagato tutto in qualche modo, perché magari sono dentro per reati molto gravi e quindi devono dimostrare maggiormente rispetto agli altri. Ma Mauro Palma giustamente dice il sistema è indifendibile perché, e adesso vi spiego il perché. Praticamente è successo questo, cioè il caso di Biella che è diventata da casa circondariale a casa lavoro. Perché vi dicevo all'inizio, sono più di 300 le persone internate dette pericolose, tra virgolette, quindi destinate a maggiori misure di sicurezza, che pur avendo già pagato la pena, restano nel circuito penale perché devono ulteriormente dimostrare che il cambiamento è stato maturato. Questa casa di lavoro nel carcere di Biella, che è diventata carcere, che è diventata casa di lavoro ultimamente, prevedeva che che i detenuti venissero coinvolti nella produzione di divise per la polizia penitenziaria, cioè messi a lavorare per fare questo sostanzialmente, però intanto non c'erano le condizioni per farlo. E le condizioni di lavoro giuste per farlo, e poi ovviamente c'era il problema del sovraffollamento, quindi non sono riusciti a concludere questo percorso lavorativo e anche di dimostrazione del loro percorso di cambiamento. E ha spiegato la garante dei diritti di Biella che l'85% di queste persone non ha legami sul territorio e quindi non ha neanche la possibilità dopo di avere misure alloggiative, cioè non possono essere garantite queste misure, quindi si ritrovano sempre lì, sempre all'interno, come fantasmi, diceva il titolo, delle carceri. E che cosa dice il nostro garante dei detenuti Mauro Palma? Che va fatta un intervento su tre direzioni, cioè è grave questa cosa, bisogna risolverla, cioè non è possibile, diventa una violazione dei diritti personali questa situazione, quindi bisogna innanzitutto predisporre luoghi logisticamente e strutturalmente diversi dal carcere in cui scontare queste misure. Poi diffondere programmi di coinvolgimento del territorio nella loro esecuzione, cioè non è possibile che la città non si dimostri capace di accoglierle queste persone in cerca di un alloggio. E poi sicuramente la cosa più importante di tutto è la riduzione dei tempi complessivi della durata delle pene, e quindi anche su questo sarà necessaria una riforma penitenziaria molto importante. Ma ora do la parola a te, Ignazio, con sì. La Somalia. Grazie, grazie Caterina. Abbiamo un articolo da un giornale sudanese, quindi andiamo un po' più verso giù l'Africa, non sulle coste, di Uluwatosin Popola, spero di aver detto bene il suo nome, che è un legal advisor, un consulente legale di Amnesty International, che lancia l'allarme sull'aumento esponenziale di sentenze di morte nell'Africa subsahariana. Si parla di un aumento del 53% in Kenya, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Zambia e Zimbabwe. Si parlano nell'anno 5.731 persone messe a morte in quest'area. E ci si domanda perché. È molto bello questo articolo, dice, sembra che l'unica cosa che si riesca a fare è dare una persona e dargli la morte. E lui dice in modo molto forte e la pena di morte, e io, noi condividiamo questa cosa, non solo una violazione dei diritti umani, ma una punizione crudele e degradante e disumana. È verissimo, aggiungo però questo, che ci sono forme di carcerazione che sono una specie di anticamera della pena di morte, questo tante volte lo sentiamo dire da tanti detenuti, ma se così forse sarebbe meglio essere messi a morte. Cioè il fatto di abolire la pena di morte è la prima cosa, non bisogna portare le persone alla disperazione, a desiderare la morte o darsela, c'è il grande problema appunto per esempio del suicidio in carcere, quindi comunque un campanello d'allarme che si dice chi ha sbagliato deve essere aiutato effettivamente a essere rimesso in piedi. E diamo un po' di speranza con un po' di musica. Sì, l'ultimo brano della settimana, rapidissimamente, un cantante libanese molto molto romantico, che Michel Emil Kfouri, quindi Michel vuol dire che è un cantante che ha conosciuto meglio come Wael Kfouri, che canta un tipico tema d'amore, La Hubna Galta, e se fosse un errore essersi amati. أكبر غلطة بدي حبك أكتر بعض بدي أعطي عيونك وعد رح نبقى دايما لبعض لولا بكرة تركنا بعض لولا بكرة تركنا بعض هي أكبر غلطة هي أكبر غلطة E rieccoci sempre su Liberi Dentro, sulle note musicali di questo cantante libanese. Ritorniamo con la nostra, per il nostro ultimo appuntamento della settimana col Galateo Arabo, e stiamo parlando di accoglienza. E allora io ti chiedo, Ignazio, che cosa ha a che fare la delicatezza con l'accoglienza? Delicatezza, abbiamo visto che nell'accoglienza araba è proprio un rito. Una ritualità, accogliere, aprire, ancora ricordo la mia Palestina, la Palestina poi occupata, veniva un momento del pomeriggio, alle 5 del pomeriggio vedevamo dal nostro convento che le porte si aprivano e la gente povera si andava a trovare uno con l'altro e si mettevano a bere il tè all'ingresso della casa, nei cortili, questa grande ritualità. E l'ultimo pezzetto abbiamo visto che si prega l'uno per l'altro, che ci si serve con le mani, che ci si segue nel posto giusto. Una delle delicatezze è questo. Dice il nostro testo, dopo la fine, mentaman ziaratu azzaer, antamshi mahu ilababid dar, allora che quando è finita la visita, il padrone di casa lo accompagna fino alla porta, una cosa semplicissima, no? Ma molto, molto bella, sappiamo che a questo punto c'è la preghiera reciproca, uno e l'altro si benedicono e lo si congeda sulla porta di casa, è un modo per dirgli guarda che ti aspetto quando vuoi tornare. Bello, molto bello, è bello concludere la settimana così. E ora concludiamo anche con te, Samad, che sei stato ospite con noi fino ad oggi. Se c'è il cambiamento, cioè come cambia la percezione di se stessi dopo la detenzione? Avviene un cambiamento? Avviene un modo nuovo di guardarsi? Sì, direi che è stata una settimana molto interessante. Per concludere andiamo verso il cambiamento. Sì, direi che una volta fuori da quelle mura non sei più la stessa persona. Nel momento in cui esci e prendi quel fine pena, e anche quando finisci totalmente la pena, che poi l'avrai dopo che aver fatto la riabilitazione e tutto quanto, e ti sei anche riabilitato, non sei più la stessa persona. Non saprei perché, forse perché nel momento in cui, ahimè, soprattutto quando fai una detenzione in carcere, perdi un po' della tua dignità, essendo paghi non solamente con i giorni, no? Con la pena, però una parte della tua dignità la perdi, quindi come perdersi la verginità. Cioè essere ammazzato in quattro persone, non avere una privacy quando vai in bagno, non avere una serie di cose, spogliarti, umiliarti ogni volta che fai un colloquio, spogliarti davanti alle persone, tu perdi la tua dignità. E non è mai la stessa persona. Una volta fuori da quelli maledetti mura, i fantasmi rimangono sempre di quel posto, rabbia, odio, anche se cerca proprio di superarla, quindi ci vuole troppo supporto psicologico una volta fuori dal carcere, che nessuno si parla mai, quindi, e questo te ne accorgi con gli anni. Man mano che passano gli anni, queste ferite iniziano a risalire sopra, anche a distanza che io adesso sono fuori da sei, parlo della mia esperienza personale, anche da 6-7, ma man mano queste cose emergono su, quindi non è finita. Una volta che sei fuori dal carcere, non è finita, non per il carcere in sé per sé, ma per il tipo di violenza che tu subisci e non vieni poi, non viene proprio curata. Quindi il cambiamento, questo potrebbe essere il cambiamento. Mi piacerebbe tantissimo dire sì, positivo, perché cambi tutto quanto, però alcune cose, alcune rimangono, e quindi sono un pochino pessimista, cerco di evidenziare le cose negative che sono dal carcere per cercare di migliorarli, ma non per tirarli sopra, perché, ma per cercare di trovare delle soluzioni, di lavorarci, per questo cerco di evidenziarle, perché poter togliere una persona dalla recidiva è una vittoria per tutti. Cioè il fatto che una persona esca da là dentro e trovarselo dentro un mese, due, tre, un anno, due, è una perdita di tutto quanto, dello Stato, sia a livello economico che a tutto quanto. Quindi non è, e quindi cerco di evidenziarli per poterli studiare, approfondire e trovare. Ci vuole molto supporto, soprattutto psicologico, e quindi e speriamo in un cambiamento positivo, che questo porti dei cambiamenti per tutti. Vorrei augurare a tutti un buon Ramadan, che sia un anno, è un anno diverso sia con il Covid, con tutto quanto, però speriamo che porti un cambiamento migliore per tutti. Grazie, grazie di tutto, e ti tocca lanciare l'ultimo brano della settimana. Sì, lancio, chiudo con questo brano, che è di questo cantante del nord, dalla zona dove ci sono le donne in mulo. Si chiama Muslim di Tangeri, un rapper marocchino che canta sulla madre, sulla mamma, si chiama proprio la canzone Mamma, a tutte le mamme del mondo che soffrono insieme ai loro figli dietro le sbarre, vi dedico questa canzone qua. Grazie a tutti, e noi ci rivediamo dopo la musica con Maria Inglese. Grazie. كتحييني من اللي تهمس بكلامه حيت ربي جعل الجنة تحت قدامه كنولي شاعر كل مشاعر نكتب ونغني ونتفنن فرحاني باغي نقولك نبغيك بلغة كل الفنون حيت عليك يدور الكون نبغيك يا يما تخسخ شامة يما اركن تيري غاينا اش لي بديش ماما I love you mom شو تيم ماما Te amo, e kufanya o mama. Yemma nabghi kana fouq ma katkhayli, enti lqmar li mdawili layli. Ma arfet alash dmoui baghi tsil, yemkin tfahmi klam dmou. Hes qalbek maji kima baqi lqloub, tbghili kima ana wakha alayoub. Ma kayna lmra li fiha ana kndoub, men ghayrek yemma. Enti li tfahmi lghat ayouni, enti li ayounek yjaoubouni. كلماتي خانوني كلماتك هي قانوني Ed eccoci di nuovo, bentornati su Liberi Dentro, i nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Come ogni venerdì siamo con la nostra Maria Inglese da Parma. Buongiorno. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti. Per parlare della nostra rubrica di salute mentale, in qualche modo, salute anche del cuore, salute degli affetti, dei sentimenti, tutto ciò che ci riguarda, la nostra persona. E l'altra volta stavamo parlando del rapporto con gli educatori a partire da una lettera che abbiamo ricevuto, una lettera molto bella che mette un po' in discussione anche a tema, a focus, l'aspetto della relazione tra la persona detenuta e l'educatore che si occupa della valutazione, ecco, del suo percorso. E tu dicevi giustamente, Maria, l'ultima volta che nel ruolo degli educatori è molto importante avere un aspetto, uno sguardo non giudicante verso la persona da rieducare, che in qualche modo deve essere considerata in ripartenza. Hai usato questo termine bellissimo. Ma io allora ti chiedo, allora non sarebbe giusto partire che questa persona o chi insomma si occupa delle persone da rieducare partissero dal concetto di consapevolezza di una rottura che c'è stata tra la società e la persona stessa nel momento del reato? Allora, sì, giustamente Caterina, tu hai sottolineato questa parola, la rottura. E allora, nel mio linguaggio la rottura ha a che vedere con una rottura dell'equilibrio e dal punto di vista psicologico, diciamo. Però rottura è anche la rottura di un patto sociale, di un patto di coabitazione, di un patto di convivenza, di un patto di cittadinanza. E tu hai detto come si fa a capire se questa persona entra in questa forma di riparazione, no? Di ricostruzione o di ripartenza. Allora, non bisogna avere uno sguardo giudicante, questa è la prima cosa. Se pensiamo a come rappresentiamo invece la dea giustizia, noi vediamo una dea bendata che quindi non guarda in faccia a nessuno. La legge, leggiamo in tutti i tribunali, la legge è uguale per tutti. Però questo non guardare in faccia a nessuno non permette in realtà di entrare in relazione con quella persona che in quel momento può rappresentare, appunto, può portare la sua domanda di ripartenza. E allora in un altro paradigma di giustizia, come quello della giustizia riparativa, la dea non è più bendata, ma bensì è una dea con gli occhi aperti, che appunto guarda dritto in faccia, guarda dritto negli occhi il reo e nello stesso tempo guarda anche agli occhi della vittima. Allora mi sembra molto importante questa possibilità di guardare e di riconoscere la persona come portatrice di una domanda, portatrice di un bisogno di ripartenza. Ecco, questo mi sembra che sia la prima cosa, che un po' è quello che facciamo noi come psichiatri, come psicoterapeuti. Tutte le volte che una persona bussa alla nostra porta, porta un bisogno, porta una domanda, ecco, e dobbiamo essere pronti ad accogliere questa domanda. Secondo me, come tu hai detto, lo sguardo non giudicante è la premessa forse della possibilità di una ripartenza, altrimenti ritorniamo in quello che è il paradigma della giustizia tradizionale, che non guardando in faccia a nessuno applica quelli che sono i suoi strumenti, cioè la bilancia che pesa il danno recato in pena e l'altro strumento è la spada che separa la persona dal suo contesto. Ecco, allora senza fare delle generalizzazioni troppo ampie, secondo te non sarebbe giusto però anche fare una distinzione tra quelle che sono un po' le tre grandi categorie del reato, no? Il commesso? Quindi si parte dal reato legato alla condizione in cui è la persona in quel momento, faccio per esempio dal tossicodipendente a chi non ha casa e allora si ritrova a fare reati di piccola portata, diciamo, a chi ha fatto del crimine nella propria professione, pensiamo alla criminalità organizzata, a casi invece estremi, capita, di delitto solitario. Esatto, appunto la prima categoria, come dicevi giustamente tu, è legata a persone che commettono reati ma che sono legati al proprio essere, al proprio stato, cioè, ed è questa la maggior parte delle persone che compongono la popolazione detentiva. Il soggetto tipo che troviamo in carcere è un uomo giovane tra i 20 e i 35 anni, per lo più povero, poco istruito e straniero, e spesso tossicodipendente o con un disagio psichiatrico o psicologico. Quindi già questo ci fa capire che esiste una marginalità estrema, una fascia di persone molto vulnerabili, molto fragili, che a causa della loro condizione, al loro essere, sono portati poi a compiere dei reati. E questo tipo di categoria possiamo anche ritrovarla nell'analisi che fa Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli in questo libro uscito qualche anno fa che si chiama Oltre la paura e che mette in relazione nell'ultimo capitolo appunto la sofferenza che si incontra oggi in carcere, che è appunto quella che stavamo definendo adesso. Bene, è ora di lanciare un brano musicale prima di ritornare a noi. Allora lanciamo Ligabue, siamo chi siamo. Siamo. Grazie. Conosco una ragazza di Torino un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno, e parla sempre di partire senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano, si sente una canzone da lontano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade, averne presa una, per tutti quegli incroci, nessuna indicazione. Di tutte quelle strade, provarsi a farne una, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, un giorno c'era un doppio arcobaleno, un giorno ci hanno attaccati al seno, un giorno ci hanno rovesciato il vino. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano, tu non chiamare più che ti richiamo. Conosco una ragazza di Salerno. E rieccoci sulle note di Luciano Ligabue, Siamo chi siamo, per l'appunto stavamo definendo un pochino con te, Maria, il percorso di persone in ripartenza, diciamo, è bello considerarle così invece che parlare sempre di rieducazione. E concentrandoci un po' sull'ultima categoria, tra virgolette, di persone detenute, quelle che sono in questo momento scontano la pena per un reato legato al delitto solitario, che cosa potremmo dire a riguardo? Allora, in questo caso è, secondo me, il tipo di relazione anche forse più complesso che mi viene in mente. Mentre se parliamo di, come abbiamo detto prima, persone che fanno reati legati alla loro condizione, oppure un'altra categoria che non abbiamo considerato, che sono gli appartenenti alla criminalità organizzata, ma magari ne possiamo parlare un'altra volta, nel caso che tu citavi, la persona che compie un gesto isolato, quindi parliamo però di un gesto grave, un gesto violento, ecco, in questo caso è molto importante riuscire a entrare in relazione con il dialogo interiore che quella persona ha svolto al momento della commissione del reato, e il dialogo interiore che magari svolge tutti i giorni ripensando a quel gesto violento. Ecco, in questo caso io penso che sia molto utile appunto mettersi all'ascolto di quel dialogo, e la ripartenza è questo: riuscire a far narrare quanto è successo, e in questo devo molto appunto ad Adolfo Ceretti e a Lorenzo Natali, che nel loro libro Le cosmologie violente raccontano come avvengono questi incontri con le persone che hanno agito la violenza contro un'altra persona, e quindi un gesto grave. Ecco, la ripartenza in questo caso è proprio legata al permettere all'altro di uscire dal proprio soliloquio, quindi dalla propria narrazione univoca, totalizzante, bianco o nero, che vede le cose in modo così netto, ed entrare invece in un dialogo. O come dice Lorenzo Natali, uscire da una storia per poter entrare in un'altra storia. Ecco, questo è il compito, secondo me, delle persone che lavorano in carcere, che siano educatori, che siano criminologi. Ma io penso anche che questo ruolo, anche magari marginalmente, occasionalmente, quasi un po', lo possiamo svolgere tutti noi operatori dello Stato che entriamo appunto a lavorare in carcere, perché è importante proprio riuscire a permettere a queste persone di rinarrarsi, e narrare a qualcun altro quello che si è fatto è qualcosa di molto difficile. Quando si passa quel limite, effettivamente la persona è già in una situazione di ripartenza. Grazie Maria, e allora io ne approfitto per ribattere io con un brano musicale, siccome abbiamo parlato di questo intreccio profondo tra la società rieducante, la comunità rieducante e le persone che hanno bisogno di questo aiuto, allora ci vuole una buona dose di fiducia e allora lancerei Giovanotti, mi fido di te. Grazie mille, ci rivediamo venerdì prossimo. Ciao, grazie. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. E anche oggi la settimana di Liberi Dentro, i buongiorni di Liberi Dentro si conclude, ma noi non vi abbandoniamo perché ci sono sempre i laboratori. Oggi pomeriggio alle 17 sulla televisione abbiamo i Cantieri Meticci, mentre sabato alle ore 6 sulla radio, alle 17.30 sulla televisione la Cappellania del Carcere col Vangelo Ti è Vicino e alle 17 il Teatro del Pratello, che invece va in onda sulla radio alle 6.30 del mattino. La domenica avremo alle 6 sulla radio, alle 10 sulla televisione Note Libere, il laboratorio di musica, mentre alle 6.30 sulla radio e alle 17 sulla televisione il Teatro dell'Argine, mentre solo sulla televisione alle 10.30, lo so, sono tanti gli orari, ma vi abbiamo dato anche le notizie scritte, e alle 10.30, dicevo, avete il FOMAL con lo chef al fornelletto. Ringrazio tutta la redazione, sempre il nostro tecnico Matteo Parisini, Ignazio De Francesco, Samad Bannak, che è stato ospite per tutta la settimana, e vi ricordo di iscriverci, l'indirizzo postale sempre Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure liberidentro.eduradio@gmail.com. E noi siamo sempre con voi anche la prossima settimana. Buona giornata a tutti.